Fishbit di Giulia Crivelli. Shape. Alexandra Schulman, How Her Time at Vogue Shaped British Fashion. La notizia data dalla BBC nei telegiornali e sul sito ha colto tutti di sorpresa. Alexandra Schulman lascia la direzione di Vogue UK pochi mesi dopo aver celebrato in grande stile i 100 anni della rivista di moda. Il titolo scelto dalla TV britannica è stato «Come la sua permanenza a Vogue ha cambiato la moda britannica». La parola che ci interessa è shaped, passato del verbo to shape, regolare. Letteralmente significa dare forma e shape, sostantivo, vuol dire a sua volta forma. Come in italiano esiste un uso letterale e uno figurato. This tool is used for shaping the wood. Questo strumento serve a dare forma al legno. His ideas had been shaped by his experiences during the war. Le sue idee presero forma, furono influenzate dalle sue esperienze durante la guerra. Il sostantivo offre molti altri spunti. Get yourself into shape. Torna in forma. I don't approve violence in any shape. Non approvo la violenza, qualsiasi forma assuma. He's in good shape for a man of his age. È in buona forma per l'età che ha. Will new technology change the shape of TV broadcasting? Le nuove tecnologie cambieranno forma alle trasmissioni televisive? Un'altra parola da non sottovalutare mai, specie quando la si vuole tradurre in italiano, è time. Nel titolo dedicato ad Alexandra Schulman si parla di her time, che non significa il suo tempo, ma il tempo trascorso alla direzione di Vogue. E vediamo alcune espressioni che contengono time. Time consuming è un aggettivo che si usa per indicare qualcosa che ci porta via del tempo, che ce lo fa sprecare. Timekeeper è il cronometrista, colui che tiene, to keep, il tempo. Time out è l'espressione che abbiamo letteralmente inglobato nella nostra lingua e che indica il momento in cui un allenatore interrompe una competizione per parlare con i suoi atleti a gioco fermo. Time bomb è molto simile all'italiano. Rising unemployment is a political time bomb for the government. La disoccupazione è una bomba a orologeria per il governo. Lo stesso per time machine, che in italiano ha bisogno però di tre parole: macchina, del tempo.